rassegna stampa Europa. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Siamo appunto al consueto appuntamento con la rassegna stampa europea. Prima però volevo solo rispondere a un ascoltatore che dice che qui a Radio 24 lui percepisce un po' di pessimismo e che invece è giusto darsi da fare come fa Renzi. Ma le assicuro, Roberto, anch'io voglio assolutamente, io, lei cita anche il nostro direttore, tutti noi vogliamo cercare di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Il problema è che i dati, purtroppo, soprattutto come giornalisti economici non possiamo ignorarli, e quindi questi dati che sono arrivati nei giorni scorsi non solo non possiamo ignorarli, dobbiamo commentarli, e anche se magari qualcuno ha per carattere magari un pochino più di pessimismo, no, non è il pessimismo, anzi facciamo tutti il tifo perché le cose alla fine, perché l'Italia, appunto come anche detto Squinzi a Rimini, riprenda a crescere. Ma veniamo ai quotidiani e alla stampa europea. Vorrei tornare un attimo sulla copertina dell'Economist, perché innanzitutto per fare una piccola precisazione, perché l'Economist ha quasi sempre tre copertine, una per l'Europa, una per gli Stati Uniti e una per l'edizione asiatica. Siccome molti erano preoccupati subito, l'immagine dell'Italia, Renzi con il gelato, ecco, vorrei innanzitutto tranquillizzare un pochino chi pensa che l'Economist sia così influente, perché poi è un po' tutto da dimostrare che così influente sia questo giornale, sicuramente molto, molto autorevole, fatto bene, ma non credo che cambi il destino della percezione dell'Italia nel mondo. Però la copertina dell'edizione americana, che è una delle più diffuse, è in realtà dedicata a un altro dei principali articoli contenuti nella edizione di uscita ieri dell'Economist, che è quella sulla criminalizzazione delle corporation, che è un tema molto caro all'Economist. Quindi la copertina americana è quella, poi invece per l'Europa vabbè c'è quella che sappiamo. E vorrei anche precisare che poi all'interno, in realtà, con i tre leader raffigurati su quella barca che affonda, cioè Angela Merkel, François Hollande e Matteo Renzi, forse Matteo Renzi è quello verso il quale l'Economist continua a avere la maggiore apertura di credito. Vi leggo allora una piccola parte di quello che è l'articolo dell'Economist, che in realtà è un editoriale che appare subito, come sempre, per i pezzi importanti che danno il titolo alla copertina, e poi c'è anche un approfondimento all'interno. Dunque l'Economist si trova in tantissime edicole italiane, per chi avesse voglia di leggersi proprio l'articolo in originale. Scrive quindi l'Economist: se Germania, Francia e Italia non troveranno un modo per riportare a galla l'economia dell'Europa, l'euro potrebbe essere spacciato. Solo pochi mesi fa i leader dell'area euro ritenevano che la tempesta fosse passata grazie all'impegno del presidente della BCE Mario Draghi, che è il quarto passeggero di quella barchetta fatta con la banconota di euro, che ha fatto tutto il possibile per la moneta unica. L'Economist spiega però che quella era un'illusione, perché la dimostrazione è giunta nelle ultime settimane con i dati deludenti sul PIL della Germania, lo ricorderete, anche la Germania infrenata, Francia e Italia, e l'inflazione bassa che fa temere la deflazione. Quella iniziata 4 anni fa con una crisi delle banche e del debito sovrano è deteriorata in una crisi della crescita che sta ora avvolgendo le tre maggiori economie dell'area euro. E su Renzi, come vi dicevo, ricorda l'Economist che il Hollande, per esempio, ha un grande problema rispetto a Renzi, che è estremamente impopolare, mentre Renzi resta ancora popolare, e scrive l'Economist, ha coraggiosamente annunciato dure riforme, che è vero non sono ancora state attuate, però appunto diamogli un pochino di tempo. E il presidente Renzi non è riuscito invece a convincere gli elettori che cambiamenti dolorosi, tra cui una riduzione delle dimensioni dello Stato, sono inevitabili. Quindi questo era l'Economist. Ma veniamo un attimo alla questione del vertice di oggi, perché non sappiamo bene che cosa succederà, però possiamo fare alcune anticipazioni. Sapete che potrebbe finalmente esserci un via libera alla nomina del nostro ministro degli esteri Federica Mogherini a diciamo ministro degli esteri europeo. Secondo, abbiamo visto nei giorni scorsi, Le Monde, qualche giornale ne ha parlato, dice che non sarebbe una buona scelta. Invece la Süddeutsche Zeitung ne ha parlato e dice che Federica Mogherini, che è da breve tempo in carica, è ritenuta favorita per il posto di alta rappresentante per la politica estera. Secondo questo quotidiano tedesco, l'incarico di presidente del Consiglio invece sarebbe favorito il premier polacco Donald Tusk, che può sperare sul sostegno di Berlino e Londra. Sapete che c'è tutto un po' un gioco di, come sempre in queste nomine di governi, perché di fatto la Commissione è il governo dell'Unione Europea, ci sono appunto tutte queste mosse dietro le quinte. Per il presidente del Parlamento Europeo, che è un socialdemocratico, il tedesco Martin Schulz, l'incarico di presidente del Consiglio dell'Unione Europea deve andare però ai socialisti europei, altra dichiarazione rilasciata alla Süddeutsche Zeitung. Secondo Schulz, la Mogherini comunque sarebbe un buon candidato. Invece Schulz non è c'è un altro commissario su cui ci sarà molto da discutere, che è quello degli affari economici e monetari, e secondo alcuni ci vuole anche in questo caso un socialista, secondo altri ci vuole un popolare, che ricordiamo il Partito Socialista è il partito più rappresentato all'interno del Parlamento Europeo, che dovrà una volta formata questa commissione dare il suo parere. Quindi vediamo un po' come va a finire. Secondo la Bild, che è questo quotidiano estremamente diffuso in Germania, un po' un tabloid, non è un quotidiano considerato particolarmente serio, molto più seria in questo senso la Süddeutsche Zeitung, però anche la Bild ha detto che per l'incarico di alto rappresentante la favorita resta appunto il nostro ministro degli esteri Federica Mogherini. Ci sarebbe il via libera della Germania perché Angela Merkel è pronta a sostenere la sua candidatura. In cambio però dell'appoggio all'attuale capo della diplomazia del suo governo, il premier italiano Matteo Renzi dovrebbe aiutare Merkel, scrive la Bild, a bloccare le nomine dell'ex ministro delle finanze francese Pierre Moscovici a commissario per le questioni economiche e monetarie. Attenzione, proprio quel Moscovici che invece piace a Schulz. La candidatura di Mogherini risponde a una serie di criteri. È socialista, è donna, giovane, di un paese del sud Europa. Ricordiamo appunto che una delle questioni è che questa commissione che si sta delineando, per ora, stando alle indiscrezioni, ha una quota rosa molto bassa, e questo potrebbe essere un problema per Juncker, il presidente designato, che aveva promesso una forte presenza femminile. Veniamo a un'altra questione, che è quella del referendum di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, che si avvicina, per l'indipendenza scozzese. Il referendum si terrà il 18 settembre secondo l'ultimo sondaggio del Scottish Daily Mail, il 47% dei voti sarebbero favorevoli a un'uscita, all'indipendenza, il 53% invece favorevoli a una permanenza nel Regno Unito. Quindi comunque percentuali che si stanno molto assottigliando. Ma perché ve ne parlo? Perché non è chiaro, scrive il Scottish Daily Mail, quale sarebbe lo status scozzese all'interno dell'Unione Europea se appunto alla fine vincessero i sì per l'indipendenza. I nostri trattati infatti non contemplano la possibilità di una secessione in seno ai paesi membri. Quando ci sono stati questi trattati nessuno ha pensato, ma magari una delle macro regioni all'interno un giorno diventa indipendente. A quel punto qual è lo status nei confronti dell'Unione Europea? Quindi si aprirà eventualmente anche questa questione, anche se personalmente spero che alla fine la Scozia non decida non per l'indipendenza, ma insomma di restare all'interno del Regno Unito. Tra l'altro Scottish Daily Mail spiega che comunque è un po' una regione a statuto speciale, un po' come le nostre, cioè la Scozia gode già di una grande indipendenza. Veniamo a El País, dove è stato pubblicato un interessante articolo su quello che viene definito lo specchio rotto di Mosca. José Ignacio Torreblanca analizza un po' quelle che forse sono state per tanti anni le illusioni che abbiamo avuto in Europa, ma anche negli Stati Uniti, su Putin. Gli europei pensavano che la Russia si sarebbe trasformata in una democrazia liberale che si sarebbe avvicinata all'Unione Europea, ma dalla sua rielezione nel 2012 Putin ha bloccato la modernizzazione del suo paese, come dimostra la recente crisi in Ucraina. Questo articolo di El País lo trovate grazie a quel sito che sapete a me piace moltissimo, che è presseurope.eu, che ci aiuta a tradurre gli articoli di giornali europei quando non riusciamo a farlo perché magari sono in lingue che non conosciamo bene. Nel caso dello spagnolo magari molti ci possono arrivare, ma ce ne sono tanti altri, e come per esempio questo articolo sempre da Press Europe tratto da Den, che è un quotidiano di Kiev, che si intitola Invasione. C'è stato, lo ricorderete, quell'incontro a Minsk tra il presidente ucraino Petro Poroshenko e Vladimir Putin, era solo il 28 agosto, erano due giorni fa, si pensava che fosse un riavvicinamento e poi sappiamo che in realtà la NATO ci ha mostrato le foto dei blindati russi che entravano in Ucraina, e abbiamo visto quindi tutte le reazioni e le conseguenze che possiamo temere. E allora Mirola Siruk di questo giornale scrive: le recenti discussioni di Minsk hanno dimostrato che gli occidentali non hanno un'unica posizione. Penso che la più pericolosa sia quella di Berlino e Parigi. Flirtano con Putin e le sue paure e rifiutano di isolarlo politicamente. Putin ha insegnato agli occidentali che fa come gli pare, e ora vuole imporre le sue condizioni agli europei e cambiare l'ordine mondiale usando l'Ucraina come luogo per autoaffermarsi. I suoi obiettivi tattici sono di costringere l'Ucraina a rinunciare all'accordo di associazione con l'Unione Europea nella sua forma attuale e di costringere gli occidentali a riconoscere la Crimea russa. Purtroppo questi ultimi hanno già perso la faccia con Putin e la NATO ha mostrato la sua debolezza e incapacità a rispondere alle nuove sfide mondiali. A proposito di NATO, abbiamo sentito appunto che ieri l'Ucraina ha chiesto di entrare nella NATO. Ma veniamo a due articoli che ho trovato invece su Internazionale, in edicola da ieri. La copertina di Internazionale è dedicata in realtà a un'inchiesta sulla produzione di salsa di pomodoro che poi finisce in Africa, molto interessante, però siccome qui parliamo d'Europa, allora vi cito un articolo apparso su Le Monde che parla della crisi di governo, del rimpasto di governo che c'è stato questa settimana in Francia. Le Monde definisce questo rimpasto l'ultima possibilità di François Hollande. Dopo la crisi di governo, il presidente francese può contare su un nuovo esecutivo più coerente e unito. Ora deve mantenere le promesse fatte agli elettori dopo la vittoria del 2012. E poi vi segnalo sempre da Internazionale un interessantissimo articolo apparso sulla Zeit, il settimanale tedesco, che vi è intitolato Il paradiso olandese e il paradiso nel senso paradiso fiscale. E anche qui c'è un accenno al fatto, c'è una spiegazione su tutte queste norme fiscali che favoriscono l'emigrazione di tante aziende in Olanda, e poi si spiega che Bruxelles chiede ai paesi dell'Unione Europea di armonizzare le loro imposte aziendali, ma finora non ha ottenuto grandi risultati. Altro grande tema, quello dell'armonizzazione fiscale. Era l'ultima notizia, l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Un buon sabato da Giulia Crivelli, un grazie a Peter Bescapè in regia, ci sentiamo domani per la rassegna della domenica. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.